pesca questa sera del secolo XXI. Su questa pattumiera di fango e di miracoli, la vita incandescente, oh, è istinto primordiale. Chi non si è fatto male non l'ha vissuta mai. E sopra il comodino un Cristo personale ci può giustificare e ci perdonerà. Una benedizione non ha mai fatto male, hai un Cristo personale che ti perdonerà. All'ombra della luna, oh, si cercano altre vite, prendendo a schiaffi la fortuna e liberando i diavoli. Un brindisi al veleno, ci perdonerà. Una benedizione non può che farci bene, hai un Cristo personale che ti perdonerà, che ti perdonerà, lui ti perdonerà, ti perdonerà. Keep it.